Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Le previsioni economiche d'inverno della Commissione europea, si intravede un barlume di ottimismo nei dati diffusi questa mattina, stime in rialzo nell'eurozona. È così, Sergio Nava? Sì, buongiorno. Buon pomeriggio. Migliorano le prospettive, ma i rischi permangono. Così la Commissione europea ha sintetizzato le previsioni aggiornate sull'economia continentale. Allora, in termini assoluti, stima Bruxelles, l'Europa registrerà un più 1,3%, l'eurozona registrerà un più 1,3% quest'anno, due decimali in più rispetto a quanto stimato a novembre, mentre l'Unione Europea a 28 crescerà dell'1,7%. Per il 2016 Eurozona e Unione Europea dovrebbero, condizionale d'obbligo, riallinearsi con una crescita rispettivamente dell'1,9% e del 2,1%. In linea generale, per Bruxelles le prospettive di crescita in tutta l'Europa sono frenate ancora da un contesto poco favorevole agli investimenti, da un'elevata disoccupazione. Gli ultimi sviluppi hanno però migliorato le prospettive a breve termine. I prezzi del petrolio sono scesi rapidamente, l'euro si è deprezzato, la BCE ha lanciato il quantitative easing e la Commissione europea ha presentato il piano di investimenti. Tutti questi fattori, Bruxelles ne è convinta, avranno effetti positivi sulla crescita. Veniamo ora all'Italia. La Commissione europea stima una ripresa graduale per quest'anno, sostenuta soprattutto dalla domanda esterna, quindi dall'export. La domanda interna è prevista in moderato miglioramento. In numeri parliamo di una crescita positiva dello 0,6% dopo tre anni di segno meno per il 2015 e di un più 1,3% il prossimo. Il deficit dovrebbe calare al 2,6% quest'anno e al 2 il prossimo, mentre il vero macigno resta il debito pubblico al 133% quest'anno. Sentiamo in breve cosa ha detto il commissario all'economia, commissario europeo all'economia Pierre Moscovici. Avec les trois pays dont les chiffres doivent être encore évalués d'ici alla fin février, à savoir la Belgique, la France e l'Italie. E allora Moscovici ha annunciato che Bruxelles pubblicherà i risultati dell'esame sulle leggi di stabilità di Italia, Francia e Belgio il 27 di febbraio. Piccola parentesi greca, perché la Commissione europea definisce la crescita ellenica a rischio, l'incertezza sulla direzione delle politiche sta avendo effetti sulla fiducia e può intralciare la velocità della ripresa. Ecco, a proposito di Grecia, i dati economici diffusi oggi da Bruxelles cadono in una giornata particolarmente agitata. Ieri sera la decisione, come sappiamo, della BCE di bloccare i rifinanziamenti ordinari alle banche greche, dopo che il ministro delle finanze ellenico Varoufakis aveva definito un colloquio fruttuoso quello avuto poche ore prima con il presidente della BCE Mario Draghi. Ma il tour europeo di Varoufakis segna oggi una tappa importante, è infatti proprio in questi minuti a colloquio a Berlino con il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Nava? Sì, allora, la conferenza stampa è di fatto appena conclusa, attesa conferenza stampa Schäuble e Varoufakis. Sentiamo subito allora la voce di Wolfgang Schäuble. Schäuble, che ha detto: ho avuto il piacere di incontrare il collega Varoufakis, ci siamo intrattenuti a lungo in modo intenso, non siamo d'accordo su tutto, anzi siamo d'accordo sul disaccordo. Schäuble ha aggiunto: le cause della situazione greca sono responsabilità della stessa Grecia. La Grecia, lo avete appena ascoltato, ha detto Schäuble, appartiene all'euro, ora però abbiamo bisogno di una discussione aperta e intensa. La posizione di Berlino è che non vogliamo un'Europa tedesca, ma serve più competitività e per questo occorre fare i compiti. Poi Schäuble ha parlato anche di evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale, mentre Varoufakis da parte sua ha rintuzzato Schäuble. Abbiamo detto: non è vero, non siamo d'accordo, siamo d'accordo sul disaccordo, ma siamo d'accordo sul dialogo, anche se ha ammesso non abbiamo trovato alcuna intesa. E Varoufakis ha poi aggiunto e concluso che l'intenzione del governo di Atene è trovare un programma ponte fino a maggio per dare respiro appunto all'economia greca e poi nel frattempo trovare un'intesa più ad ampio raggio sul debito tra Grecia, Europa, BCE ed FMI. È tutto, Piera. Grazie, grazie a Sergio Nava ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.